Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi. È il consueto appuntamento con Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 con taglio di magazine sulla cronaca italiana, ma anche sulla politica nazionale, locale, sui casi di nera giudiziaria, sullo spettacolo e la cultura. Oggi è il 22 febbraio e nel pomeriggio il governo presenterà in Parlamento le linee guida del federalismo. Parliamo dunque di federalismo, che è il punto centrale di un partito strutturato sul territorio, la Lega, diventata una sorta di ago di bilancia in queste ore, l'equilibrio con cui si regge l'attuale maggioranza di governo. Paolo Piacenza questa mattina vi fa entrare proprio dritto nella pancia della Lega. Cosa farà la Lega? Alla fine, mese dopo mese, settimana dopo settimana, la crisi politica italiana si gioca tutta intorno a questa domanda, che da un lato garantisce al carroccio la forza che deriva dall'avere il pallino del gioco in mano, ma dall'altra rischia di creare non pochi grattacapi a chi deve decidere, che nella Lega alla fine è sempre uno solo, Umberto Bossi. Sul filo del rasoio, tra federalismo ed elezioni tenute del governo e sirene dell'opposizione, fedeltà dei militanti e qualche malumore più o meno sopito. C'è un po' di tutto e il contrario di tutto in queste settimane nella pancia di quello che molti hanno definito l'unico partito vero oggi in Italia e che spesso viene accompagnato dall'aggettivo leninista per la capacità che dimostra di definire i propri obiettivi e di perseguirli con ferrea unità d'azione. Anche ascoltando Radio Padania si intuisce che la Lega è a un bivio. Ad esempio, nel giorno del rinvio a giudizio di Berlusconi e dell'intervista sulla Padania con cui Bersani offre al carroccio un patto per il federalismo in cambio dell'addio al premier, di bunga bunga nei microfoni padani non si parla o quasi. Si parla invece di federalismo e se la maggioranza degli ascoltatori teme che la polpetta di Bersani sia avvelenata, qualcuno apre uno spiraglio al segretario PD. Padania Libera, ciao Ortelli, Mauro Seregno. Ciao Mauro. E io tornerei ancora sul caso Bersani, sì. Se mi permetti. Prego. E arrivo subito alla conclusione e poi sviluppo se posso un ragionamento. Sì. Per me parlava ai suoi elettori o quello che gli rimane come elettori potenziali, per un semplice motivo. Signori, piaccia o meno ai quei nostri pochi detrattori del tipo Luigi Di Mercati, ma la gente al nord, ma a questo punto al centro-nord, la pensa esattamente come la Lega. Pertanto il signor Bersani deve dire ai suoi elettori che ancora gli rimangono in Emilia Romagna, ad esempio, piuttosto che in Piemonte, signori, noi siamo come la Lega, è solo perché c'è quel porco di Berlusconi che noi non votiamo le leggi della Lega, ma noi siamo con la Lega, anzi più della Lega. Non sanno più che pesci pigliare, non sanno che atteggiamento adottare. Niente, io volevo dire solo una cosa, l'ho sentito da stamattina ai fili diretti, però qui c'è molta gente che non si rende conto di una cosa, che se il federalismo non è condiviso largamente, non è detto che per il resto dei tempi la destra continui a vincere le elezioni, quindi potrebbe anche essere modificato, addirittura azzerato se vince qualcun altro. Quindi sarebbe bene che fosse la proposta di Bersani potrebbe non essere proprio una cosa al di fuori del tempo e dello spazio, ecco. Tra i dirigenti del partito bossiano sull'offerta di Bersani prevale la prudenza. Il viceministro Castelli evoca i classici e dice «Timeo Danaos et dona ferentes, temo gli achei anche quando portano doni». Il presidente del Consiglio regionale lombardo, Davide Boni, ricorda che decide Bossi e che comunque, data la situazione, è ovvio che tutte le forze politiche corteggino la Lega. Anche Attilio Fontana, sindaco di Varese vicino a Maroni e spesso critico con i tagli di Tremonti ai comuni, non dice sì. Ma neppure no. Se lui fa queste offerte deve comportarsi di conseguenza, non può pensare di sfruttare il federalismo per operazioni di basso governo, per operazioni di carattere esclusivamente politico. Lui, se fa questo tipo di proposte, deve iniziare a comportarsi in modo coerente, quindi a dare una mano all'approvazione del federalismo fiscale. Poi si può fare qualunque tipo di ragionamento, ma se lui continua ad utilizzare questa riforma come strumentale modo per far cadere il governo, lei capisce che la credibilità tende ad azzerarsi. Qui si tratta di capire chi deve cominciare, no? Ovviamente, e ovviamente lei dice, è giusto che cominci chi vuole federalismo. Se io voglio uscire con una ragazza e voglio iniziare un fidanzamento con lei, devo essere io il primo a farle capire che voglio invitarla a cena, almeno, se no è difficile. Intanto, nell'immediato, Bossi ha visto Berlusconi e ha confermato la linea, fedeli al governo. Nell'immediato è così. Resta il fatto che sotto il pelo dell'acqua padana si agitano perplessità e preoccupazioni, che Marco Alfieri, inviato della Stampa e conoscitore di cose leghiste, riassume così. c'è certamente grande insofferenza, però è un'insofferenza che si manifesta soprattutto su quegli attori, quei soggetti che sono maggiormente in trincea, cioè gli enti locali. Ricordiamoci che ormai la Lega ha più o meno un esercito di quasi 400 tra sindaci, presidenti di provincia, sparsi un po' per il Lombardo-Veneto, con qualche macchia importante in Piemonte, qualcuna addirittura anche in Emilia-Romagna, fino alla, diciamo, all'avamposto sudista nelle Marche. Quindi è un mosaico di attori sul territorio che inizia a essere importante a pesare. Sono attori che aspettano quasi come un Godot questo federalismo che non arriva mai, e sono molto, molto arrabbiati con quello che loro chiamano il tandem Tremonti-Calderoli per un federalismo che deve ancora arrivare, ma per ora è già concreto tagli, diciamo così, alla finanziaria, tagli lineari che quindi non guardano in faccia, diciamo così, non fanno differenza tra comuni virtuosi e comuni spreconi, soprattutto nel sud Italia, dicono loro. Quindi diciamo la prima frontiera di malumore è proprio questa degli enti locali. Poi c'è un secondo fronte che ovviamente si esprime nell'insofferenza della base, del militante classico, che però è ancora, diciamo così, legato al netto appunto di testimonianze anche abbastanza colorite e ruspanti a Radio Padania, è ancora abbastanza legato il militante classico al verbo bossiano, e quindi come tale è ancora manovrabile da quella che è, diciamo così, un certo tratto plebiscitario leninista che Bossi riesce ancora a inserire nel partito, un partito verticista, e quindi se il capo dice una cosa tendenzialmente la base segue. Il problema però, e qui siamo al terzo fronte, è che ormai la Lega è un partito talmente cresciuto, non più, come dire, riassumibile nel rapporto tra il capo e la base, ma ormai ha anche inglobato, passando dal 6-7% ormai al 10-11%, che sono le percentuali elettorali delle ultime elezioni, ormai ha anche un voto d'opinione importante che va oltre lo zoccolo duro, quindi un mondo diciamo di professionisti, un certo ceto urbano che ormai ha sdoganato la Lega, e quindi rispetto a questa nuova platea che non ha un rapporto, diciamo così, fideistico con il capo, ma ha votato la Lega in quanto, come dire, firmando una sorta di baratto, cioè noi ti votiamo in cambio di riforme, beh, questo pezzo di elettorato ovviamente è molto deluso e sta aspettando la Lega al varco, e nel caso in cui non dovessero arrivare le riforme nei tempi pattuiti, è chiaro che potrebbero, quasi usando la Lega come un taxi, scendere dal convoglio. Italia in controluce, la prima edizione, quella del mattino, termina qui. Cercateci su Facebook, Twitter, oppure comunicate con noi con la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna oggi in diretta alle 13.30, parleremo di Roma, tra problemi di sicurezza e scandali tipo Parentopoli.